393. Funghi mangerecci. I funghi, per i principi azotati che contengono, sono fra i vegetali i più nutrienti. Il fungo, per il suo profumo particolare, è un cibo graditissimo. Ed è gran peccato che fra le tante sue specie se ne trovino delle velenose, le quali solo un occhio esercitato e pratico può distinguere dalle innocue. Una certa garanzia possono darla le località riconosciute, per lunga esperienza, esenti da pericolo. In Firenze, ad esempio, si fa un uso enorme di funghi che scendono dai boschi delle circostanti montagne e se la stagione è piovosa cominciano ad apparire nel giugno, ma il forte della produzione è in settembre. All'ode del vero bisogna dire che la città non è mai stata funestata da disgrazie cagionate da questi vegetali. Forse perché le due specie che qui esclusivamente vi si consumano sono i porcini di color bronzato e gli ovoli. Tanta è la fiducia nella loro innocuità che non si prende nessuna precauzione in proposito, neppur quella che suggeriscono alcuni di far loro alzare il bollore in acqua acidulata d'aceto. Cautela che peraltro sarebbe a carico della loro bontà. Delle due specie sopraindicate, i porcini si prestano meglio fritti e in umido, gli ovoli trippati e in gratella.